greater than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, non cuoce quasi mai. E mentre nella fabbrica di polli la produzione non accenna a diminuire, K e Drago si organizzano contro i piccioni. We tell you this frankly. If you wish to avoid the excitement and tension of these imaginative plays, we urge you, calmly but sincerely, to turn off your radio now. Via! Bussali! Topi volanti! Via! Come sono originali! Ma che topi volanti? Topi volanti? Ma no, i topi volanti sono i pipistrelli. Questi sono piccioni. Vabbè, ma io dicevo topi nel senso di schifezza, non nel senso di che somigliano dei Fledermaus, topi. Drago. Sì, Fledermaus, lo so, pipistrelli. Pipistrello, in tedesco. In tedesco. Primo di classe. Però di piccioni ne sono arrivati due o tre qualche tempo fa. Infatti, erano lì. Poi sono diventati sei o sette, poi venti, adesso saranno mille. Si vede che chiamano i parenti. No, ma è che i piccioni usano la bomba demografica, hai capito? Bomba demografica. Alla lunga la bomba demografica è una politica che paga. Magari all'inizio si muore un po' di fame, però a forza di fare figli si vince. Ah, ma fantastico, quindi per l'Africa c'è ancora speranza. Se non muoiono tutti di AIDS prima. O di fame. In quel preciso istante, in un'ala poco frequentata della fabbrica di polli. Capito, vecciotte e veccioni? Noi conquisteremo poco per volta la fabbrica di polli. Noi non siamo per la violenza, siamo per la presenza. Tranquilli, metodici, pronti a scroccare qualsiasi cosa. Immobili, noi ci siamo. I piccioni sono una realtà e non possono mica ammazzarci tutti, Quindi, quando noi arriviamo da qualche parte, c'è poco da fare. Arriviamo! E questa è la nostra forza. Noi ci siamo! Grazie, grazie. Dunque, il nostro scopo è quello di ottenere senza fretta una serie di privilegi, senza nemmeno chiedere. Noi ci accomodiamo senza parlare troppo. Noi diciamo agli altri, se volete, ignorateci, ma noi ci siamo. E vi sembra poco? Ci siamo. La giunta ha stabilito mangime avvelenato per tutta la nazione, cresce la tensione. Un piccione sto dentro la soluzione. Il vuoto di potere nella fabbrica fa solo comodo ai piccioni, te lo dico io. Nessuno si prende la briga di fare qualcosa qui. Che ne so, non so. Trappole, mettete delle trappole, delle esche. Delle esche avvelenate. Guarda che è così sempre, è così che nascono i guai. Quando il potere centrale molla la presa, succedono i casini. Guarda l'impero romano, guarda l'impero coloniale inglese. Guarda che luna, guarda che mare. Ma dov'è l'amministratore delegato? E dov'è? Una domanda retorica, Drago, perché lo sappiamo benissimo dov'è. Lo so, è in luna di miele con il colonnello Unghiute. Che vergogna, che vergogna. No, ma guarda che il problema è che adesso il militare africano va molto di moda. Sì? Sì, perché no, sono centinaia di angolani, liberiani, ruandesi vestiti in mimetica che si accompagnano a ricchi uomini d'affari di tutto il mondo. Ah sì? Eh sì, hanno anche superato le hostess bielorusse alte 2 metri e laureate in semiologia. Scimmioni africani senza un briciolo di istruzione di sex appeal che sostituiscono le bielorusse alte 2 metri. Vabbè, però il sex appeal, mi insegni anche tu che è soggettivo, no? Se ti piace il black aroma, o il black Winnie sandwich, o insomma in generale il black manganellum. Ma dai, Drago, ma il black manganellum. Ma cosa c'è contro il black manganellum? Il black aroma? La fabbrica di polli. Ma cosa fanno qui tutti questi piccioni? Non se ne può più. Va bene, siamo tutti uccelli, tutti galenacei, va bene. Ma noi qui rischiamo ogni giorno di finire decapitati. E loro no, che poi non è mica giusto, Tutti sanno che la carne di piccione è buonissima, solo che nessuno ha il coraggio di mangiare sti zozzoni che stanno qua, E pensare che nel Medioevo ogni castello aveva la sua bella piccionaia, e quindi c'era sempre una bella scorta di carne sempre a disposizione, Arrivavano ospiti, si mandava la serva a prendere una dozzina di piccioni e li si arrostiva. Adesso i piccioni sono i padroni di Piazza del Duomo a Milano, di Piazza San Marco a Venezia, di Piazza Maggiore a Bologna, di Piazza San Pietro a Roma, e così via. Potrei elencare tutte le piazze del mondo, Ma nessuno, dico nessuno, si rimangia. Si è mai visto un barbone di Piazza Duomo che arrostisce un piccione? Mai. Però lo stesso barbone, appena racimola un po' di soldi, si fionda in una rosticceria e si prende mezzo polo allo spiedo. E a me saltano i nervi, Ma mangiateli sti piccioni, no? Sono lì, sono tanti, sono tonti. Tonti mica tanto, però sono gratis. Un barbone dovrebbe almeno provarci, no? A catturare un piccione. L'uomo non è cacciatore. E allora che si guadagni la pagnotta? Intanto io sono in sbattimento, Attenzione! Parlo a nome di sindacato dei piccioni pensionati. Questo è un comunicato per le maestranze della fabbrica dei polli. Noi vi avvisiamo che siamo arrivati. Ci avrete visto già, ma comunque sappiate che siamo arrivati e che siamo tanti. E che non abbiamo intenzione di fare un dubbio di niente e che ci aspettiamo comunque di ricevere cibo e riparo senza dare un dubbio di niente in cambio. Questo è il nostro programma. Se vi piace, bene. E se non vi piace, è bene lo stesso. Passo e chiudo. Chicken seed crap. Hai visto, Drago? Quel piccione ciccione con la coppola, quello lì, è il presidente del sindacato dei piccioni pensionati. Lo so. Certo che ha le idee chiare, Non far niente e ricevere il necessario per vivere e riprodursi. Ha veramente una bella faccia tosta. E poi ha il becco. Tutti i piccioni hanno il becco. Già, mica glielo tagliano loro. Ecco perché alla fine avranno ragione loro. Sono in tanti e hanno anche il becco. Gli africani invece sono in tanti ma non hanno il becco. Per loro la vedo un po' più dura. E i cinesi? I cinesi ce l'hanno il becco? Tanti sono tanti. Sono tanti. Il becco? No, ce l'hanno il becco, I cinesi? Però piccolino. Hanno un becchino. È mica come mio, Il mio è più grande, Però sono tanti. Che cosa succederà adesso? Chi arginerà la lenta ma inesorabile invasione dei piccioni? Scopritelo sintonizzandovi domani a mezzanotte su Radio 3 per il prossimo ornitologico allestimento de... La fabbrica di polli. La fabbrica di polli produce, non chiude. La fabbrica di polli produce, non nuoce quasi mai. Io ce l'ho più grosso, Vabbè, ma... No, ma voi pensate subito a quello. Subito. Io parlo solo di becco. Barlumen.